Il Natale speciale di Papa Panov. Molto tempo fa, nel giorno della vigilia di Natale, in un piccolo villaggio della Russia, un vecchio calzolaio chiamato Papa Panov uscì dal suo negozio per dare un'ultima occhiata in giro. Le luci avevano cominciato ad apparire nei negozi e nelle case e la breve giornata invernale era quasi finita. Bambini eccitati correvano nelle loro case e ora solo suoni soffocati di chiacchiere e risate sfuggivano da persiane chiuse. I deboli ma deliziosi odori della cucina natalizia gli ricordavano i Natali passati, quando sua moglie era ancora viva e i suoi figli erano piccoli e vivevano ancora con lui. Ora erano andati via, in città. La sua faccia, di solito allegra, adesso sembrava triste. Con il cuore pesante chiuse le persiane ed entrò nella sua casa. Appoggiò una tazza di caffè sul fornello a carbone e con un sospiro si sistemò sulla sua grande poltrona. Papa Panov non leggeva spesso, ma stasera prese la grande vecchia Bibbia di famiglia e lentamente, tracciando le righe con l'indice, lesse di nuovo la storia di Natale. Maria e Giuseppe camminavano mano nella mano e presto a Betlemme arrivarono. Erano stanchi, ma non vi era dove riposare. E così il bambino di Maria nella stalla dovette nascere. Oh cielo, se solo fossero venuti qui, avrei dato loro il mio letto e con la mia trapunta avrei coperto il bambinetto. E poi vennero i tre re a cercarlo, portando splendidi regali per accoglierlo. Il piccolo bambino Gesù è arrivato e insieme i magi hanno accolto il re dei re. Rattristato, Papa Panov mise giù la Bibbia. Oh, non ho regali che potrei dargli. All'improvviso il suo volto si illuminò. Oh, ho la cosa giusta. Sì, sono belle come mi ricordavo. Dovrei dargliele. Detto questo, le mise via delicatamente e si sedette di nuovo. Adesso si sentiva stanco e più leggeva, più era assonnato. Le parole cominciarono a ballare davanti ai suoi occhi, così li chiuse, solo per un minuto. In pochissimo tempo, Papa Panov dormiva profondamente. Hai desiderato di riuscire a vedermi, Papa Panov. Ti dico una cosa. Cercami domani. Sarà il giorno di Natale e ti visiterò. Ma guarda attentamente, perché non ti dirò chi sono. Aspetta! E con un sussulto, Papa Panov si svegliò dal sonno. Le campane suonavano e una luce sottile filtrava attraverso le tende. Benedici la mia anima! È il giorno di Natale! Si alzò e si stiracchiò perché era un po' dolorante. Poi il suo sguardo cadde sull'orologio. Erano solo le 4 del mattino. Cosa? Sono sveglio così presto? All'improvviso sentì un suono proveniente dall'esterno e il suo viso si riempì di felicità mentre ricordava il suo sogno. Oh, il mio sogno! Sì, il mio sogno! Caspita, dopo tutto sarà un Natale davvero speciale! Perché Gesù verrà a trovarmi. Ma che aspetto avrà? Sarà un bambino piccolo, come a quel primo Natale? Sarà un uomo adulto, un falegname? O il grande re che è? Devo stare molto attento tutto il giorno, in modo da riconoscerlo, qualunque aspetto lui abbia. Papa Panov aprì immediatamente le tende e aprì le finestre. La strada era deserta, ad eccezione dello spazzino. Oh, è lo spazzino? Ma perché sta lavorando il giorno di Natale? E in questa fredda, gelida nebbia di una mattina simile? Ehi, vieni! Entra e bevi un caffè caldo per scaldarti un po'! Lo spazzino alzò lo sguardo, a malapena in grado di credere alle sue orecchie. Era troppo felice di posare la scopa e di entrare nella stanza calda. strinse entrambe le mani rosse e fredde attorno alla tazza calda e confortante mentre beveva. Ah, questo è... aspetti qualcuno? Sì! Papa Panov gli raccontò tutto del suo sogno e di come stava aspettando l'arrivo di Gesù. Beh, spero che venga. Mi hai dato un po' di allegria natalizia che non mi sarei mai aspettato. Direi che meriti che il tuo sogno diventi realtà. Questo fece sorridere Papa Panov. Lo spazzino finì il suo caffè e lasciò la casa di Papa Panov pieno di calore e felicità. Dopo un po' di tempo, Papa Panov iniziò a cucinare una deliziosa zuppa calda di cavolo, sempre continuando ad andare alla finestra a cercare il suo visitatore. Ma mentre guardava fuori, vide una giovane donna il cui viso era pallido quasi come la neve. Teneva in braccio un piccolo bambino stretto in sottili coperte. Mamma mia! Come può qualcuno vagare là fuori al freddo? È il povero bambino! Devo chiamarla! Ehi! Mi scusi, giovane donna! Per favore, venga a casa mia a scaldarsi un po'. Il fuoco sarà di aiuto anche al suo bambino. La povera donna era così incredula che le uscirono le lacrime dagli occhi. Oh, grazie, gentile signore! Lei si lasciò portare davanti al suo caldo caminetto. Mentre sedeva lì, il suo piccolo bambino iniziò a gorgogliare. Oh, che carina! Mi faccia scaldare del latte per lei. Oh, e non si deve preoccupare. Le darò anche da mangiare. Ho avuto anch'io dei bambini. Papa Panov scaldò il latte e lo diede da mangiare alla bambina con un cucchiaio. Ma mentre lo faceva, notò che i piedi della bambina erano diventati leggermente blu a causa del freddo. Ha bisogno di scarpe. Molto urgentemente, direi. Non ho i soldi per quelle. Sto andando al villaggio successivo per trovare un lavoro. Non c'è niente che io possa fare. Papa Panov ci pensò per un po' e si ricordò delle scarpette che aveva visto la scorsa notte. Ma quelle scarpe sono per Gesù. Ma quando vide i piedini blu per il gelo della piccola bambina, prese subito la sua decisione. Ecco, puoi avere queste. Oh! Guarda come le stanno bene! Beh, sembra felice! La piccola bambina mosse le gambette, piena di gioia. Sei stato così gentile con noi! Possano tutti i tuoi desideri avverarsi! Mentre la donna mangiava la zuppa calda, lui continuò a guardare con ansia su e giù per la strada. C'erano molte persone in giro, ma erano tutti volti che riconosceva. C'erano vicini che chiamavano le loro famiglie, salutavano, sorridevano e gli auguravano buon Natale. Quando la zuppa fu terminata e la bambina stava meglio, la donna ringraziò ancora una volta Papa Panov e poi se ne andò. Buon Natale! Mentre era alla porta, Papa Panov vide un mendicante che camminava nel freddo gelido. Si affrettò immediatamente in casa a prendere un po' di zuppa calda e un generoso pezzo di pane. Quindi si affrettò e lo diede al mendicante. Il mendicante era felice, lo ringraziò e se ne andò. Papa Panov sorrise e tornò in casa. E presto calò il crepuscolo invernale. Papa Panov era alla sua finestra, ma non riusciva più a distinguere i passanti. La maggior parte erano nelle loro case. Abbattuto, tornò alla sua poltrona e si sedette stanco. Ah, quindi, dopo tutto, era solo un sogno. Improvvisamente apparvero davanti a lui il vecchio spazzino, la giovane madre con il suo bambino e il mendicante. Non mi hai visto, Papa Panov? Cosa? Non riesco a capire. E poi un'altra voce gli rispose. Era la voce del suo sogno, la voce di Gesù. Avevo fame e mi hai dato da mangiare. Ero infreddolita e scalza. Mi hai nutrito e mi hai coperto i piedi con scarpe comode. Avevo così freddo ed ero stanco. Non pensavo che qualcuno mi avrebbe notato. ma tu lo hai fatto e mi hai dato tanta felicità. Sono venuto in tre diversi momenti e tu mi hai notato, aiutato e amato allo stesso modo. Grazie. Papa Panov non poteva credere ai suoi occhi e alle sue orecchie. Era sopraffatto dalla gioia. Poi tutto fu tranquillo e silenzioso. Solo il suono del grande orologio che ticchettava. Una grande pace e felicità adesso riempivano la stanza, riempiendo il cuore di Papa Panov, che subito iniziò a cantare, ridere e ballare di gioia. Oh, oh, oh, oh, oh. Quindi è arrivato dopo tutto! Auguri di Buon Natale! Auguri di Buon Natale! Auguri di Buon Natale! È felice anno nuovo! E così la generosità di Papa Panov aveva reso felice il suo Natale dopo tutto. Non importa quale persona. Trattare chiunque con tutta la gentilezza che puoi offrire è ciò che rende davvero il mondo un buon posto. Non importa la religione, Dio risiede in tutto. La cosa principale che dobbiamo fare è amare tutti allo stesso modo.